parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. male. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena per la rabbia, per quest'assio. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Questo non credo. Ed eccolo qui, lo strumento nelle mani del demonio. Voglio dare ragione a Paolo Villaggio, come sempre d'altra parte, nella sua follia, 40 anni di Fantozzi, più di 80 lui, mezzo rincoglionito, eccetera eccetera, ma splendidamente rincoglionito, cioè un personaggio che è rincoglionito come vorrei essere rincoglionito io a oltre 80 anni. Con degli sprazzi di enorme lucidità, come ha dimostrato qui alla Zanzara qualche giorno fa, in collegamento in diretta da Roma con il sottoscritto, mentre Parenzo, non so dov'era, ovviamente non era con me. Ero a Milano. Non mi ricordo, comunque altrove, beh, come sempre. Altrove. Come sempre, e anche ieri da Fazio ha avuto un momento eccezionale in cui se l'è presa con i giovani. Queste cose mi fanno impazzire. Il lavoro c'è, ha detto, il lavoro c'è, e loro sono, i giovani, poi è una generalizzazione per carità, sono un po' impigriti, viziati, cioè alla fine il lavoro ci sarebbe, ma loro sono talmente viziati e impigriti che non afferrano tutto quello che si potrebbe afferrare. Mi sembra che tutto considerato sia ingiusto dire non c'è lavoro, mi sembrano impigriti, viziati. Che non si incazzino questi giovani, siccome, però, si sono già incazzati adesso dopo che l'hai detto, però è vero un po', però è ma no, ma non è vero che non c'è la possibilità di, io sono dell'avviso che quelli che hanno veramente fame ce la fanno, però... ragazzi, è vero, è tutto vero, è tutto, no. Vero, e mi stupisce, hai visto Fazio, no? Hai sentito Fazio, cioè si è capito quello che pensa Fazio o no? Cioè, no, se è dalla parte di Fantozzi, no. Che è, scusa, di Villaggio, no. se è contrario, un po' è vero, sì, però sono in cioè, non un si po'. È capito, come al solito, non si è capito da che parte sta Fazio. Questa è anche l'Italia, questa è anche l'Italia. Vi faccio sentire il presidente dell'ANAS Ciucci, l'amico Pietro Ciucci. Allora, la cosa incredibile, perché ogni volta che uno ci pensa dice no, non è possibile, invece è così. E questi casi ho messo, no? Signor Ciucci, presidente dell'ANAS, dice tranquillamente che lui prendeva il doppio di Obama. E che è sbagliato però fare questi confronti. Non si può fare il confronto con Obama. Invece noi lo facciamo. C'è il presidente dell'ANAS che per carità ha la responsabilità di tutte le strade italiane. Sapete dove c'è scritto il cartello ANAS, no? Le strade statali, anche un po' di autostrade, eccetera, eccetera. Dice tranquillamente di prendere il doppio di Obama. Di Obama, che può schiacciare un bottone e ammazzare un sacco di gente. Oddio, anche con le strade si possono ammazzare un sacco di persone. Appunto, però. Soprattutto con le strade. Senta, lei fino al 2013 prendeva, mi corregga, 750.000 euro all'anno, giusto? Poi va in pensione e prende 1,8. Lo sa, se ne è mai accorto che prendeva più di Barack Obama, il doppio rispetto a Barack Obama. Ma questi sono confronti che forse colpiscono la sua fantasia, ma non... No, ma... Però è la verità. Lei il mio confronto, per quanto mi riguarda, lo deve fare con altri manager, altri vertici di altre società pubbliche. amici miei. Il confronto si fa sempre con gli altri, naturalmente. Il confronto si fa sempre con chi prende di più, non con il presidente degli Stati Uniti d'America. Vabbè. Una frase di Veronesi mi ha colpito, una frase del professor Veronesi, una secondo me bellissima, l'altra pessima, ve lo dico subito, quella pessima, iniziamo da quella pessima, quando dice che l'amore tra un uomo e la donna è strumentale, invece quello tra gay, sentite questa perché è curiosa come cosa, l'aveva già detto una volta, che l'amore gay è più sincero, più vero rispetto all'amore tra uomo e donna, che è una stronzata, diciamolo chiaramente, è una stronzata, l'amore è amore tra certo. uomo e donna, tra uomo e uomo, perché quello gay dovrebbe essere più sincero, perché non c'è di mezzo la procreazione, sì vabbè però... L'amore tra un uomo e una donna che si sposano è strumentale alla creazione di una futura, per la genitorialità, di una futura discendenza, mentre l'amore tra un uomo e un altro uomo o una donna e un'altra donna è puramente puro, è un amore vero, un amore universale. Sapesse il professor Veronesi quanti omosessuali si mettono con omosessuali ricchi semplicemente perché sono ricchi o per opportunismo, come succede peraltro tra eterosessuali, mille casisti. La purezza dell'amore non c'entra niente, non è che l'amore gay è più puro, dai. Invece dice una cosa bellissima quando sostiene che i figli nati dal vitro, cioè dagli esperimenti, da quelli che alcuni chiamano esperimenti, da quelli che alcuni chiamano come te, Parenzo, le macchine costruite da Marchionne in laboratorio, sono comunque figli bellissimi. Io però non parlo in generale dei figli. Aspetta, fammi sentire Veronesi. La fecondazione in vitro e con la fecondazione eterologa ci permettono di soddisfare molti di questi bisogni. Mi dispiace che abbiano detto che i bambini che nascono in vitro sono bambini chimici o virtuali o artificiali o sintetici. In realtà sono bambini normalissimi, bellissimi. È con noi un senatore che ha fatto parlare molto di sé negli ultimi giorni, molto di sé, soprattutto per alcune sparate, quelle che sono state definite sparate, perché poi magari ci crede. Non è un uomo che di solito fa degli show, cioè non è come il nostro carissimo amico Razzi, di cui comunque fa parte dello stesso movimento politico, della stessa area. Lui si chiama Lucio Barani. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Come sta? Bene, bene. Senta, ma lei ha ancora qualche busto di Craxi a casa per caso? Ma certo, certo. Come certo? Di questo grande statista. Enorme. Grande d'Italia. Scusi, non ha rubato qualche quattrino Craxi così, tanto per... o no? Ma assolutamente no. Non è la verità processuale non l'ha mai dimostrato. Beh, oddio, no, qualche illecito, qualche conticino in Svizzera, qualche conticino di famiglia in Svizzera c'era, caro Barani. Ma che ci ridessero Bettino Craxi, sarebbe un'Italia migliore e diversa, con PIL al 5%, disoccupazione tendente a zero, con un prestigio internazionale incredibile, e i Marò non sarebbero in India. Allora, questa è la sintesi del senatore Barani. Se ci fosse Craxi in Italia oggi, Bettino Craxi, e dico e ripeto Bettino Craxi, ma lo dico in modo neutro, per carità, certo. Modo neutro, grande statista, l'Italia oggi, andiamo nell'ordine, lo ripetiamo perché qualcuno potrebbe non aver ascoltato, caro senatore Barani. Allora il PIL non sarebbe 0,01, ma sarebbe il 5%, più 5%, siamo praticamente come la Cina, come qualche paese asiatico, come la Cina, come gli Stati Uniti, economia che galoppa, il Made in Italy sarebbe la quinta potenza economica del mondo, economica. Sì. Debito pubblico alle stelle, ma questo no, è un aspetta. No, debito pubblico alle stelle ci è andato dopo l'87%. Sì, vabbè, ma ricapitoliamo i vantaggi, in che posizione sarebbe l'Italia con Craxi al comando, diciamo, no? Quinta potenza economica. Quinta potenza economica. Poi che abbiamo detto? Un'altra cosa. Poi abbiamo detto la disoccupazione sarebbe stata praticamente sotto il 6%, cioè una cifra sola, non al 3%. No, ma diciamo zero anche, cioè piena occupazione. No, zero, per carità, non, ha, non è neanche negli Stati Uniti. Non c'è niente, no. Però molto bassa, diciamo, la metà. Molto bassa, e quindi ci sarebbe stato ovviamente un prestigio internazionale. Te la ricordate, altissimo, Sigonella, come eravamo orgogliosi. Beh, io non ero molto orgoglioso di Sigonella, ma comunque, vabbè. Ma amico mio, e gli italiani non ci avrebbero portato via i Marò, non ce li avrebbero fatto questa umiliazione. Quello non lo so, quello non voglio tediare gli ascoltatori su Sigonella. No, ecco, ma il mio parere è leggermente diverso. Anche il mio. Non me lo ricordi, Sigonella, non me lo ricordi. Però lasciamo perdere, lasciamo perdere. Però io voglio dire una cosa, ma scusi, ma terroristi, adesso non voglio parlare di questo, però mi viene male. Lei i busti che ha in casa di Craxi ogni tanto li lucida? Certo, certo, ogni tanto gli metto anche un garofano, un sai garofano che però, rosso, come un garofano, come lo sa Barani, che simbolo del riformismo, del socialismo, del garantismo, come erano belli quei tempi con Pertini, Presidente della Repubblica. Ma scusi, questa serie, il presidente più amato dagli italiani, questa serie televisiva 1992 che dipinge i socialisti come dei predatori, no? Come la vede lei? Non l'ha mai vista. I socialisti sono stati nel mondo sempre avversati da giustizialisti e da comunisti. Beh, oddio, però abbiamo anche l'Italia in mano a giustizialisti e comunisti, quindi è giusto che parlino male dei socialisti. Cioè, parlatene bene o in male, vuol dire che c'erano, esistevano, erano una, diciamo, realtà. Che qualche soldo in tasca qualche dirigente socialista se l'è messo, qualche soldo in tasca. Quel periodo si è concluso che in tutto hanno trovato non miliardi di euro, 15 milioni di euro, cioè abbiamo buttato via una classe politica capace per nulla. Ma diciamo, gli assassini di Craxi chi sono? È stata più una cosa mediatica, avete voi i giornali, cioè la corruzione non c'era, era roba da poco. 5% sono stati condannati e su 100% di arresti, cioè la corruzione non c'era, la corruzione 5%, diciamo, abbiamo fatto un'incetta di innocenti in casa. E la corruzione non c'era praticamente, era poca la corruzione. Ma era i dati del Ministero della Giustizia, 5% tra chi ha patteggiato e chi è stato condannato, ma il 95% è stato risarcito. Una farsa, per una farsa. Detenzione. Vabbè, allora dopo il traffico parleremo di un'affermazione molto forte che ha fatto il senatore testé parlante alla Zanzara, cioè il senatore Barani, che ha detto che con Craxi saremmo praticamente in un Eden. Il senatore Barani ha detto che moltissimi suoi colleghi sniffano cocaina. Io noi vogliamo sapere però come è in possesso di questa informazione, soprattutto qualche nome, magari, so che lei non li farà. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. Allora, caro senatore, lei però, poi parleremo della fucilazione, ma già abbiamo spiegato, è stata una, come dire, una provocazione, quella della condanna, lei proprio un lei. Un emendamento allegorico, parabolico. Parabolico. Diciamo, spieghiamo le cose come faceva, vabbè, però, ci arriviamo Cristo con le parabole. Oddio, Cristo, adesso si è paragonato a Cristo addirittura. Non mi sono paragonato, ho detto gli esempi, l'allegoria, la metafora. Sì, però diciamo che il senatore, diciamo, quando presenta un emendamento non è pagato proprio per fare delle metafore, delle parabole. Comunque, vabbè, lasciamo perdere questo aspetto. Tanti senatori tirano cocaina. Allora, ce ne sono tanti. Chi sono questi senatori? Io qui ovviamente ho parlato da medico. Quando sento medico, quei discorsi che fanno in Senato, ma fanno anche da altre parti, in qualche talk show, no? Sì. E visto che ho fatto il medico per tanti anni, anche di pronto soccorso, e visto che me ne intendo, nel senso che li vedo, so fare la diagnosi, siamo rimasti in pochi, guarda gli occhi, e quindi anche bisognerebbe con l'esame del capello vedere se i discorsi che escono, gli stroppi, le stupidaggini che vengono fuori, siano dettati da stupidità, da cretinismo politico, come l'ho definito io, oppure da cocaina, da sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In particolare credo cocaina. Che questa ultima versione sia la più corretta, almeno le pupille le so ancora guardare. Ma se uno vai nel bagno, aspetta, miotiche o midriatiche, insomma. Sì, ho capito. Allora io voglio capire però una cosa. Lei poi ha anche detto, ha anche aggiunto, soprattutto nei partiti di nuova formazione. Dunque, quando lei guarda negli occhi, per esempio, un grillino che sbraita. Io non ho detto questo. Beh, io ho detto solamente che vedo chi parla sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quanti sono? Non consoni, e bisognerebbe fare come ho lanciato io un test del cappello per tutti. Sarebbe una forbice, una provetta. Io sono il primo a sottopormici. Io do l'esempio. Poi vengo anche in certe trasmissioni o talk show televisivi e vi faccio la provocazione anche lì. Ma no, però, ma tanto sì. Siamo certi che parliamo con il sistema, con le sinapsi cerebrali e non sotto l'effetto. Cioè, per lei questi test dove andrebbero fatti? All'ingresso del Senato ogni giorno? Oppure una volta al mese, una volta a sorpresa? L'esame del capello dalla situazione degli ultimi 4 mesi e diciamo che basterebbe farlo ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi a sorpresa naturalmente. Sì, a sorpresa, come va fatto nei piloti di aerei, come va fatto nei presentatori a sorpresa, lei dice, come a un certo va fatto ovunque, sì. Insomma. Anche presentatori televisivi va fatto, secondo ma me. Anche nei talk. Perché credo che non siano scevri di certi consumi, nemmeno lì, anzi, forse pure loro. Ambienti anche di più. Secondo lei, per esempio, chi è in qualche talk show dove vede un presentatore intanto non ci casco, scusi, lei non può dire io guardo negli occhi. Pensa la gente. No, ma ho capito, ma lo pensa la gente, bisogna vedere. Allora, senatore Barani, lei è al Senato, guarda qualcuno negli occhi. Lei ha anche detto chiaramente che vede la cocaina, la droga, gli effetti della droga, soprattutto vedo le pupille, vedo gli atteggiamenti tipici con i tic di ma soprattutto ha detto nei partiti di nuova formazione, cioè a dire soprattutto diciamo nei partiti più giovani, ho detto i grillini, dai, su. Più giovani. Molti grillini sniffano. Ma non ho detto questo, non mi permetterei. Quali sono i partiti più giovani? I partiti più giovani sono quelli, però. Lo sta dicendo lei, io non lo voglio contraddire. Contraddire. Certi atteggiamenti sono emblematici, sono diagnostici. Tipo? Insomma, un buon medico, come mi ritengo io, il colpo d'occhio, l'anamnesi e l'esame obiettivo alla sua parte. Cioè, per esempio, quando lei vede uno che sbrocca, il grillino che sbrocca la camera. Ma se c'ha le pupille che non ci passa neanche un ago. Ma quanti sono in percentuale, secondo lei, i senatori che sniffano? Ma più o meno i discorsi che fanno tanti ma più o meno, però che ne so. Diciamo che la percentuale è di a due cifre, ora se è il 10% o il 20% tra il 10 e il 20 tra il 10 scenario collettivo, però insomma è una percentuale alta come esiste da altre parti, a due cifre sicuramente. Ma dove si trova dove sniffano al Senato, secondo lei, nei bagni del Senato? Ma io vedo che certe volte qualcuno va in bagno, esce e incomincia a parlare con gli occhi fuori della testa, con atteggiamenti e con frasi che non sono consone, dico ecco. Se ne è fatta una dose troppo alta, se becco il pusher che l'ha tagliata male questa volta, perché effettivamente fa male vedere questi interventi che non hanno né capo né coda. Ma lei è a favore della legalizzazione, per esempio? Io sì. Io certo, io sono socialista. Vabbè, che c'entra, riformista, ma hanno fatto la legge Craxi-Erbolino, hanno fatto la legge Craxi-Erbolino, lo spinello libero, sì, ecco, io non sono contrario, perché da medico che non dà dipendenza né fisica né psichica. Spinello libero e legalizzato, diciamo la verità. E quelle pesanti come l'eroina e la coca o l'ecstasy, bruciano il cervello, insomma, e dai discorsi. Infatti ho parlato di cretinismo. Molti hanno il cervello bruciato, politico, per associarlo al cretinismo tiroideo, insomma, che una è una malattia per carenza di odio, invece qui per eccesso di sostanze. Ho capito. Da medico lo consiglia forse anche un bel bicchiere di vino e poi una cannetta così al volo, magari. No, ti tiri ma il vino è droga pesante, occhio. Ma una cannetta, un bicchiere non fa nulla, ma 3 o 4 ubriacano, poi ci ritirano la patente. Ma lei se l'è fatta una canna ogni tanto? Sì. No, io ohimè mi manca questa esperienza perché non ho mai fumato. Magari io si è fatta l'eroina. In una famiglia che mi hanno insegnato che il fumo fa male. Faceva male, quindi non ho mai avuto. Senta, quando vede Grillo fare un comizio, a che pensa, signor Grillo, con quegli occhi spiritati? No? Penso che nella Prima Repubblica avrebbe continuato a fare con successo il comico. Vabbè, quello d'accordo, dal punto di vista politico, ma secondo lei, secondo il discorso che abbiamo fatto prima, no, non è uno di quelli spiritati, no? Diciamo che mi inquieta sapere che Grillo è un politico. Vabbè, d'accordo, quello d'accordo, vabbè. Ma secondo lei non c'ha gli occhi di quello che si è fatto una striscia 2 minuti prima? Diciamola tutta, secondo il suo ragionamento di prima, o no? Diciamo che vederlo di notte per strada spaventa. Ma spaventa per... non mi vuole rispondere su Grillo. Spaventa. Barani. Diciamo che non è il tipico personaggio da avere, vabbè, come vicino della porta accanto. Comunque guardi che Craxi, i soldi furono trovati anche all'estero in alcuni conti. Assolutamente no. Ma come lei no? Sta, lei guardi che riceve la maledizione di Bettino Craxi. No, per carità, Bettino, perché? Craxi, che ha maledetto anche i comunisti. Ha detto: voi per non diventare socialisti morirete democristiani. O si è avverata la profezia. Ma lei dice che faceva delle maledizioni alla fine, Craxi? Certo, certo. Tipo un'altra maledizione che ha fatto? Certo, perché i comunisti, la maledizione di Bettino Craxi li ha colpiti, sono morti. Mamma mia, per carità, no. Non dica che Craxi sul finanziamento pubblico è l'unico che lo ha. Vabbè, sì, quello me lo ricordo. Va bene, grazie Barani. Invece sono bugie. Bugie, sono... per carità. Grazie Barani, grazie. A Ischia viene arrestato il sindaco accusato di una tangente da 330.000 euro, un dirigente delle cooperative chiama in causa D'Alema, eccetera eccetera eccetera, un sindaco che veniva da Forza Italia è passato per Bersani e è andato a finire con Renzi, il signor Ferrandino, ma siamo ancora in una fase iniziale, tutto deve essere provato. Renzi se la prende con Landini e Salvini. Ora va benissimo, no, che il Presidente del Consiglio faccia una polemica nei confronti del suo avversario a sinistra, cioè Landini, e col suo avversario a destra. Però, tu prova a immaginare se un leader della destra italiana, qualcuno dice addirittura che è Renzi il leader della destra italiana, avesse detto che Landini e Salvini, cioè i suoi due principali oppositori in questo momento, perché certamente non si può pensare che Berlusconi sia un oppositore di Renzi, è andato a braccetto fino all'altro giorno, no? Tu pensa se Berlusconi avesse detto a un certo punto che quelli sono dei soprammobili da talk TV, come ha detto in passato, l'ha detto anche Reggio, forse no, Berlusconi non ha detto chi vota a sinistra è un coglione. No, però ci sta tutto. No, non ti ricordi? Sì. Questa è una frase molto brutta, soprammobili da talk TV. È una frase molto brutta, perché se Renzi è una frase brutta. Fa il Presidente del Consiglio, amico mio. Una frase brutta. Ma tu sei renziano veramente fino al midollo, Cioè tu sei veramente renziano fino al midollo. Ma no! Ma è brutta non per me, io non ne dico anche di peggio di cose, ma non è quello il punto, mica fa il conduttore della Zanzara il signor Renzi, scusa, mica fa il conduttore di un ma chi te lo dici che un domani non possa fare anche quello? Sì, quello lo farà sicuramente, forse anche, come dire, un grandissimo talk show televisivo. Appunto, magari l'ha detto, io voglio fare il giornalista quando finisco quella detta. Sì, però ragazzi, dire a un certo punto che Landini e Salvini sono dei soprammobili polemica da politica, talk, dai, ma insomma ma sei veramente diventato di stretta osservanza, una volta anche tu sei partito bersaniano, perché mi ricordo che eri bersaniano. E poi sei finito un ultras bersaniano. E sei finito praticamente a fare l'agitprop di Renzi. Sì, è una cosa veramente incredibile. Agitprop credo che sia un tantinello esagerato, ma accetto, perché del nostro baraccone, questo, quindi accetto baraccone, comunque, sentiamo Renzi, positivo, Sentiamo Renzi. Però agitprop. Ma quando vedo in particolar modo i nostri principali avversari oggi, sia a destra che a sinistra, per non fare nomi ma solo cognomi, Salvini e Landini, essere i punti di riferimento in modo molto diverso, ma dico che sono due fenomeni televisivi oggi. La politica produce dei personaggi che sono semplicemente degli ospiti, dei soprammobili da talk televisivi. Ma lo sai perché è assurda questa critica? Perché è evidente che quando tu fai il Presidente del Consiglio, a parte che le presenze di Renzi come Presidente del Consiglio sono comunque alte in televisione, quando lui era nella stessa posizione di Salvini e Landini, cioè all'opposizione non solo dei governi spesso, ma anche della segreteria del Partito Democratico, dei dirigenti del Partito Democratico, era non soprammobile, era il talk televisivo, non il soprammobile che dici sta là, era lui talk, cioè veniva invitato ovunque. Per questo trovo che questa critica sia ridicola. Un Presidente del Consiglio che va alla direzione del suo partito, dove si deve decidere una cosa importante come la legge elettorale, di cui a me non me ne fotte nulla, mi interessa più Rocco Siffredi, se magari tra poco lo chiamiamo, e altre cose ancora, e figurati che mi interessa a me per esempio del rapporto tra Landini e la Camusso, non ti interessa, ma una cosa pazzesca, cioè ho visto dei servizi in televisione che si concentravano sullo sguardo della Camusso a Landini. Beh, è un grande lo racconto, sguardo della Camusso a Landini, certo, amici racconto. Miei che lavorate, che siete in macchina a pensare alla partita IVA, alle tasse, a quello che vi arriverà, i telegiornali italiani vi raccontano degli sguardi della Camusso a Landini. Cioè, questo vi stanno raccontando in questi giorni. Perché quella era sul palco? Quanti gradini è salita? Che cosa ha detto la Camusso a Landini? Ma che rapporto c'è tra due? Ma chi se ne frega? Chi se ne frega del rapporto tra Landini e la Camusso? Sono la stessa cosa! Sono il passato, la conservazione. Per me, ovviamente, no? Ma lasciamo perdere le mie considerazioni. Ma la gente che lavora, la gente che è normale, ma è interessata a capire gli sguardi tra la Camusso e... Mi ha fatto diventare pazzo questa cosa. Pazzo! Renzi, Grillo, sciacallo. Mi sento male, attenzione, mi sento male. Oggi Grillo da spauracchio è diventato sciacallo. Si butta su tutto ciò che accade nello scenario politico nazionale e internazionale, anche con dichiarazioni di indecoroso gusto. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Renzi e la direzione del PD non accetto ricatti sulla legge elettorale, c'è in gioco la dignità del governo. Salvini e Landini, due fenomeni televisivi. L'appello di Speranza, cerchiamo un'intesa per evitare che il partito si spacchi. Cuperlo, non mi arrendo e non partecipo al voto finale. Le imprese scommettono sulla ripresa, fiducia ai massimi dal 2008, il governo prepara il documento economico, si punta sulla riduzione della spesa per evitare nuove tasse. A Ischia arrestati il sindaco PD e alcuni dirigenti Coop per una tangente sulla metanizzazione, in un'intercettazione il nome di D'Alema che replica offeso e indignato. Ora si scopre che Lubis, il copilota di German Wings, era stato in cura per tendenze suicide prima del brevetto di volo, imbarazzo della Lufthansa. Le amministrative in Francia rilanciano Sarkozy verso l'Eliseo, schiaffo ai socialisti di Hollande, frena l'avanzata del fronte nazionale di Marine Le Pen. Dopo la soluzione parla Raffaele Sollecito, senza prove mi hanno additato come assassino e hanno fatto a pezzi la mia famiglia, ora forse una richiesta di risarcimento. Mi stanno molto simpatiche queste suorine di clausura della Clarisse di Napoli, perché rispondono a tono anche alla Littizzetto, stanno sul pezzo, eccetera, eccetera. Se non fosse che per un piccolissimo particolare. Ma le suorine non devono stare sul pezzo, ecco, però appunto, scusa, il punto, no, hai ragione. Perché dici che le suorine non sono Landini, no, le suorine, sono suorine. Ho detto non fosse altro che per un piccolo particolare. Pezzo, io capisco che sono suore di clausura non 2.0 come ha detto la Littizzetto, ma 3, 4, 5.0, perché non è 2.0. Qui siamo non alla suora di clausura, siamo alla suora dichiarante, cioè la suora alla dichiarante suora e rispondente. 0, certo. Però amiche mie, siete di clausura, ma allora che cos'è? Una buffonata questa clausura? Va bene, mi spiegano che ci sono diversi gradi di suore di clausura, ci sono però quelle che non possono parlare, ci sono quelle che parlano, però il fatto stesso che esiste una responsabile Facebook tra le suore di clausura, mi sembra che sia una contraddizione rispetto alla stessa parola clausura. Cioè io mi aspetto che le suore di clausura, a meno che poi non diventino laiche, non parlino, stiano zitte con tutti. Uno entri in clausura e fai silenzio. Invece sentiamo Suor Rosa. Allora, cara Luciana, noi ti abbiamo apprezzata tante in varie volte occasioni, attraverso i programmi che hai fatto, attraverso anche i libri che hai scritto, ma questa volta sei andato su un terreno che non era il tuo e a noi questo non ha fatto molto piacere e l'abbiamo scritto chiaramente sul nostro profilo Facebook. Cioè tu capisci che Suor Rosa, che dovrebbe essere di clausura, che dice cara Luciana, già è una contraddizione, un cortocircuito pazzesco, dai, su. Suor Rosa, fatemi sentire Suor Rosa, che è interessante. Ma noi se volevamo abbracciare qualche uomo, certo non approfittavamo di questa occasione, di questa situazione, in un consesso di uomini totalmente dedicati a Dio. Avremmo scelto altri luoghi. E altri uomini. Non c'era pure la voce di un uomo dietro? mi era sembrata la voce di un maschio dietro in mezzo alle suore di clausura, amico mio. Sarò perverso io, che poi nell'immaginario, no? Cioè, il fatto della suora, eccetera, è sempre nell'immaginario un po'. Non lo so, non so di quale. Tu non hai mai immaginato? Non hai mai immaginato di fare qualcosa con una suora? Mai. Ti prego. Va bene, fermiamoci qui che è meglio, fermiamoci. Lì tizzetto, fermiamoci. Io devo dire di sì, ragazzi, sì. Anche con una suora. Sì. Ma c'è una soglia della morale, qualcosa, voglio dire, che ma ti è ferma. L'immaginario, è l'immaginario. L'immaginario. Mi hanno pelato viva per quello che io, per il commento che ho fatto sul loro intervento durante la visita del Papa a Napoli. E mi hanno scritto su Facebook. Le suore. Sì, sì, lo so, anch'io ogni tanto io... Di clausura. So. Su Facebook. Sì, lo so. Non ce l'ho neanche io Facebook. No, neanche io. No, si vede che è la nuova clausura 2.0. Sì. Adesso magari si fanno anche il piercing. Posso dire una cosa alle claustrosuore? No. Scusa, non mi guardate. No. Io sono pericolosissima. Io parlo solo di Valtre di Yolanda, sì, capisci? Vero. Finite all'inferno tutte quante. Io sono, non sono una pecora nera, sono una pecora nerissima. Lascio il segno nero sul cuscino anche. Dove andiamo? Gigi Milano, vai Gigi, dimmi. Ciao Giuseppe, ti voglio salutare alla tua maniera, andate a fanculo. Saluto invece Parenzo, aspetta Gigi. Comunque Giuseppe, poi ma ti io non saluto radio. Nessuno in questo modo. Una volta mi è capitato alla fine della trasmissione di salutare in questo modo. Allora saluto tutti così, dai, forza. Ok, comunque ti volevo dire, volevo farti una proposta, Giuseppe. Dimmi. In futuro, non so quando lo ritieni opportuno, se è il caso, siamo un ascoltatore, vedi di farsi mettere in contatto con un altro ultimo ascoltatore che ha detto delle fregnate. Stamattina, per esempio, ha telefonato un coglione, no? Ma dove? Stamattina dove? Ha voluto rispondere alla battuta dove? Di Grillo. Ma stamattina dove? Stamattina nella televisione di Milan. Io seguo tutto Milan, il mondo. Si chiama Milan comunque. Vabbè, comunque. Milan, Milan. Sì, Alessandro Milan, dai. Comunque ha telefonato un coglione dicendo che la battuta di Grillo ha fatto una battuta su il pilota, no? Sì. E mentre invece si è dimenticato di dire, poteva aggiungere il fatto che Grillo invece era quello che picchiava la porta, no? Hai capito? Quello che voleva uscire, hai capito? No. Ha fatto una battuta. Picchiava la porta della sua macchina quando fece quell'incidente, forse, in questo senso? No, sì, alludeva a quello. Picchiava la porta di che allora? Vabbè, andiamo al soldo, vai. Dell'aereo. Comunque, vabbè, comunque, Giuseppe, mi devi spiegare una cosa. Sì. Ma tu ce l'hai a morte con i grillini perché ti ricordano per caso qualcuno che ti ha picchiato da piccolo? Vabbè, perché non è possibile, è inconcepibile. Stasera tu hai fatto parlare un non so come definirlo. Era un senatore o non un coglione? Ce l'ho fatto con i grillini, ciao. Ci sarà l'obbligo, di Gay Pride obbligatorio per tutti. Già vedo Parenzo sul camion, che sculetta. Devo dire che è una bella, è un bel vedere, eh? È un bel vedere, vorrei anch'io vedere Parenzo su un carro allegorico del Gay Pride sculettare con le piume. Questo non credo. Beh, esatto. A me fa cagare un mondo così, fa cagare. Bravo Di Malfone, bravo. Oh, Razzi da Chiambretti dice che non vuole pronunciare le parole gay e lesbica perché gli sembrano offensive. Come si chiamano? Beh, come li chiama lei, scusi? Io? Come li chiama? Vado, non sono. Non no, come, so li chiama, io... come li chiama? Due uomini o due donne che vogliono vivere insieme? Come li chiama? Se si vogliono stare e si vogliono bene. No, ma come si chiamano solitamente? Ah, non lo so, io guardo, non mi interessa nemmeno. Scusi, Malgioglio. Ci vuole dire come si chiamano due uomini che vogliono stare insieme o due donne? Perché beh, naturalmente sono due omosessuali oppure due gay, due lesbiche. Vabbè, io ecco, non ho voluto dire queste parole perché sembra... è normale che... Ma scusi, perché sembra... di grave. Ma perché è troppo? No, mi sembra offensivo. Ma... Offensivo? No. Però io noto una cosa, no? Chiambretti è bravissimo, per carità. Però a noi ci hanno sempre rotto le scatole e dice parlate sempre di gay, fate le stesse domande. Adesso tutti vanno a finire su quelle cose lì, no? Tutti parlano. Scusi, lei come li chiama? Gay, lesbiche? Secondo lei che cosa devono fare? Baciarsi, non baciarsi? Vabbè. rispetto tutti. Sì, ma omosessuale non è una parolaccia. Ma lo so, però. Preferisce non dirla. Preferisco non dirla. Ma così. Bellissima. Facciamo così, d'ora in poi omosessuale lo chiamiamo tramezzino. Quindi lei è più tranquillo. Facciamo così. Va bene, tramezzino. Lei cosa pensa dei tramezzini che vogliono avere dei figli sintetici? Cosa pensa loro, dei tramezzini? Loro vogliono vivere anche la loro vita e non glielo si può vietare. E bisogna rispettarlo, per quello ognuno bisogna rispettare la sua idea, come nelle altre cose si rispetta, non è che uno gli può spaccare la testa e cambiare l'idea. Beh, spaccare la testa a un tramezzino che sarebbe un omosessuale e cambiare l'idea non è male. Poi un nanetto, che significa anche aneddoto sulla Svizzera. Posso dire, io ho lavorato in Svizzera. Sì. E ho lavorato 41 anni. Sì. E nel mio reparto, dove io ero capo operaio, sì, erano tre tramezzini, come dici. Sì. Come... Eh sì, no, ma è meglio dire tramezzini, perché lei, se non se la sente di dire omosessuale, è meglio che dica tramezzino. Facciamo così. Posso dire che erano i migliori operai. Non gli dovevo dire niente e faceva le cose alla perfezione. Ma non... Devo dire che però questa cosa del tramezzino è un colpo di genio di Chiambretti, eh? Assolutamente. Vabbè, Gianni, Udine, vai, Gianni, dimmi. Niente, l'ho detto, parli sempre di zingari dalla mattina alla sera, ogni volta che veramente la oggi radio... la parola rom zingaro non l'ho pronunciata. C'è qualche furto in giro? Non è successo niente. No, volevo sapere se c'era qualche furto in giro, qualche rapina in giro grossa. No, così. No, abbiamo già rubato, figurati, per te sappiamo fare solo quello per te, Cruciani. Come, scusa? Abbiamo solo rubato. No, c'è in realtà. Il signor barone nero Yonghi Lavarini denuncia che è stato rapinato dai rom, non so come fa a perché non posso mostrare la parola merda rom, non... ma sapete cosa significa rombo, ma sapete che cosa significa rom? No, ma questa non è una notizia del tutto significa? Del tutto negativa, del tutto non lo è, del tutto. Per come no, dai, hanno rapinato a casa del barone, dico, dai, che è negativa, ma non è del tutto, hanno non rapinato posso, a casa del barone, non posso gioire, vai, no, non posso gioire, vai, cioè, se io volessi potrei dai, in questo momento gioire perché dai. Ho detto, allora, sostiene il barone nero Roberto Yonghi Lavarini, nostro amico, mio amico in particolare, nemico di Parenzo. Sabato notte degli zingari, come accertato dalla polizia, sono penetrati a casa mia, arrampicandosi sui tubi di gronda, sfondando una porta finestra, mettendo tutto in disordine e rubando alcuni piccoli oggetti di valore. Furente, dice il barone nero, capito Gianni? C'è stato qualche furto? Sto contando, infatti, ma li hanno presi? Beh, qualche soldo, no, questi non li hanno presi. No, ma questi zingari li hanno presi? No, non li hanno presi, no. E come fa a sapere che sono zingari? Ha detto la polizia. Ah, e da cosa l'hanno capito? Non lo so, la polizia lo saprà, no? È rimasto dell'odore in aria. Vabbè, ma qual è il problema? La Roma di zingaro per l'appartamento. Da cosa lo capiscono che sono zingari? Ma l'ha detto la polizia, lei non si fida della polizia? Chiediglielo a Gianni. Non si rubare al mondo. Dai, ma non si fida della polizia, ma lei Cruciani, chiediglielo a Gianni. Hai rubato oggi, lei caro Gianni, devo dire. No, non magari... ho molto tempo, devo parlare con Cruciani. Dopo, quando finisco lei che fa di mestiere? Che fa di mestiere? Traffica con rame? Che fa lei, Gianni? Ah, io cosa faccio? Noi siamo commercianti di cavalli. Sei commerciante? Che vuol dire commerciante? Che vuol dire commerciante di cavalli? Abbiamo cavalli da corsa, compriamo e rivendiamo cavalli. Traffici strani là, traffici strani. Vabbè, abbiamo anche rubato, per l'amor del cielo, non siamo mica onesti. Ah, lei ha rubato pure? Come no? Nel passato ha rubato? Ma no, ai poveri, perché ai poveri non li rubi niente, ricordati, al povero non c'è niente, cosa li rubi? Niente, non c'è niente, non puoi rubare niente. Cosa hai rubato nel passato, così per sapere? Soldi, soprattutto soldi. Ma a chi li hai rubati? Facevo con i furti d'appartamento, che hai fatto? Ma sai, se si rubano soldi in contanti, quando sono cifre importanti, comunque rubino all'evasore fiscale. Ruba un ladro, a un altro collega però, probabilmente, scusi, italiano. Aspetta. No, non ho capito. Imprenditore italiano. Beh, tu stai dicendo che hai rubato del denaro, non so come. Ma che ho mai rubato? Se io ho trovato dei soldi in contanti. Ma non hai trovato dei soldi? Dove li hai trovati? Se tu hai 10-20 mila euro in contanti, dove li hai presi? Ma dove li hai trovati questi soldi in contanti, Gianni? Guarda, degli imprenditori onesti italiani, probabilmente. Cioè, facevi dentro le case, che facevi? Facevi il topo d'appartamento, che facevi? Se ho sbagliato, ero giovane. Sai, da giovane si fa tanti sbagli. Vabbè, ho capito, sì, eri giovane, d'accordo, però eri un ladro. Li ho pagato per i miei errori, li ho pagati. Hai fatto galera, amico mio? Come no? Quanto hai fatto di galera? Ma poco, per tutto quello che ho fatto anche poco. Beh, la giustizia italiana, amico mio. In Italia, la giustizia italiana. Non vai in galera, ricordatelo. Beh, tu però, non è che sei stato troppo in galera, però, mi hai detto. per quello che hai fatto. Che hai fatto? Elencaci una... Scusami, Gianni, elencami una serie di reati che hai commesso, così tanto per... Ah, basta che... Guarda, se fai il mio cover, solo ho i precedenti penali, basta. Orista, oltraggio verso i carabinieri. Poi... Perché sei discriminato di continuo. Beh, senti, certo, da radio sei discriminato. Vedi quella cazzo di quarta, quinta colonna. Sì. Cioè, è una porcheria. Ma date un messaggio sbagliato. Sì, sembra sbagliatissimo. Tanto tu ci stai dicendo. Se vuoi, Gianni, ti do l'indirizzo di casa di Cruciani. Massimo Zingaro ti dà una medaglia. Ti dà una medaglia. Tuo Massimo Zingaro ti... No, però scusami Gianni, tu hai fatto rissa, oltraggio alla pubblico ufficiale, furto, immagino. Da ragazzino, immagino. 15, da ragazzino, anni, certo, per carità, furto, no? Furto. Come no? Furto, come no? Beh, come no? Sai, non è proprio normale, cioè, come no? Ma lo dai per scontato, no? Gli zingari, ma non lo do per scontato, non sappiamo far altro. Vabbè, insomma, alla fine che hai fatto? Non ho capito. Ma niente, non ci dà modo di anche... Ma voi parlate di integrazione, ma che cazzo dite? Sono stupidaggini. Mm. Sono stupidaggini. Stupidaggini perché? Perché se sai chi sono... Ma chi cazzo dà da lavorare uno zingaro? Parliamoci chiaro. Chi gli dà da lavorare uno zingaro? Mm. Vabbè, io non ho capito una cosa, Gianni. No, io non lo so chi dà da lavorare. Se uno è onesto e sa fare qualcosa... Ma tu che sai fare? Scusami, Gianni, che sai fare? Io lavoro come tutti gli altri. Adesso noi lavori... Parenzo parla di cooperative. Guardate che in Friuli... Io chiamo da Friuli, le cooperative sono sempre esistite, adesso con la crisi tutti hanno lavorato in cooperativa. Vabbè, ma io voglio capire una cosa, Gianni, quanto hai fatto in galera? Vado 10 mesi. 10 mesi, perché la giustizia italiana, no? Andiamo. Valentissima, vi racconto dopo quanto, avevo 18 anni, sì. E l'ho pagata quando avevo 30. Cioè, 32. Proprio la giustizia italiana per voi una cosa che la, la giustizia italiana per voi è una cosa, una specie di Eldorado. Di Eldorado. Persone come Gianni che hanno fatto. Parli, ma che cazzo dici? Ma come cazzo parli? Basta vedere voi, basta vedere il vostro. Guardate chi vi ha governato fino a ieri. Uno pregiudicato quanto lo sono io, forse più di me. Cioè, tu stai parlando di Berlusconi. Di Berlusconi. Ma guarda che avvocati che aveva. Perché quello di ieri, capito, però, ragazzi, non si può esagerare, dai. Persone come Gianni che hanno fatto i topi d'appartamento. Aspetta, anche le altre non li abbia fatti. No, ci dà lezione adesso, ladro. Esatto, cioè, io ci dico dà lezione. Il signor Gianni. No, ma io ti do un consiglio, Gianni. Il signor Gianni, per l'esperienza accumulata in tutti questi anni in diversi appartamenti italiani, andrebbe preso dalla polizia e assunto come super consulente. Perché così negli Stati Uniti fanno. Ma dai, Lorenzo, veramente dovresti andare a fare in culo, te lo dico subito. Cioè, tu stai dicendo che questo signore, che è bravo a parlare rom, quello che ti pare, il quale ha elencato i suoi reati, tra cui oltraggio a pubblico ufficiale, ladro d'appartamento, rubava i ricchi e migliaia e migliaia. No, ma ti dico, fatto 10 mesi di galera, adesso diventa consulente. Dai, ha fatto negli Stati Uniti funziona. Sì, ogni tanto funziona. Ogni tanto può funzionare. E grazie al loro know-how, direbbero. Ma rame, lei non l'ha trafficato mai, Gianni? Rame? Come no, tutto per te, tutto abbiamo fatto. Rame, no, per me, la realtà. Che hai fatto? Rubiamo anche i bambini. No, vabbè, ma lascia perdere. Sono sposato con una comunista che io li rubo e lei li mangia. Vabbè, dai, sei bravo, sei simpatico, sei spiritoso. Dimmi un reato che hai fatto serio, uno. Dimmene uno. Ma guarda, l'unico reato serio che io l'ho pagato con la galera, che poi l'abbiamo risolto, che avevo un buon avvocato, sì, e l'ho pagato. Un conflitto a fuoco che non c'era. Conflitto mi ha messo il bosso di macchina. Conflitto a fuoco. È stato dimostrato che sono stati mesi. Dai, Gianni. I carabinieri non hanno pagato. Ciao, Gianni. La cronaca. Ciao. Udine. Non ti dico male, eh? Ciao. Allora, Maurizio da Forlì, vai. Pronto? Vai. Chi sono? Ecco, ho telefonato per l'intervento della persona, il primo ospite vostro. Sì, che vai, dimmi. Ecco, vorrei dire solo questo, una considerazione. Lui ha detto queste parole, che le canne, gli spinelli non creano dipendenza, le droghe leggere non sono pericolose. Esatto. È una falsità immane. Ma possono anche creare dipendenza, ma è più raro che creano dipendenza, ed è una dipendenza diversa rispetto all'eroina, alla cocaina, non c'è dubbio, dai, forza. Questo è un discorso che ci sta, però vorrei dire un'altra cosa. Se una persona ha avuto esperienza di conoscere le persone che hanno avuto problemi di tossicodipendenza, scoprirà che la maggior parte, la stragrande maggioranza di queste persone hanno iniziato con le canne. Ma questo va bene, quindi, ma ci può anche stare, ma non c'entra nulla. A me questi discorsi mi fanno impazzire. Cioè, siccome chi è arrivato all'eroina, alla cocaina, è passato per le canne, allora anche le canne sono da abolire. Ma non c'entra, è infinitamente... No, io veramente no, non ma ho aspetta. Parlato di abolire. Maurizio, no, ma lascia... di... No, ma ho capito, ho capito che hai detto. Di ma non informare. Sì, no, d'accordo. Il la soluzione dalle droghe non è nel renderle legali o abolirle, è informare le persone che possono capire quanto male, quanti danno fanno. Ma non c'è dubbio, il problema fondamentale è che è infinitamente superiore il numero di quelli che si sono fatti le canne, si fanno le canne, che poi non sono arrivati alla cocaina e all'eroina. Certo. Per cui il ragionamento assurdo. Per allora, cui... questo qui dovresti fare questa domanda a una persona veramente neutrale ed esperta del ramo delle droghe, dato che la hashish e marijuana sono per esempio dall'FDA americana. No, ma va bene, ma lascia perdere, ma Maurizio, va bene, tutti sono droghe tutte pericolose. Ma non le droghe sono sicuramente pericolose. Il problema fondamentale è che la legalizzazione della marijuana, secondo me, della droga leggera, è fondamentale per miliardi di aspetti che abbiamo detto più volte qui alla Zanzara. Ma il ragionamento che stavi facendo tu all'inizio, cioè tutti quelli che si sono fatti o si fanno di cocaina e di eroina passano attraverso le droghe leggere, ma non c'entra assolutamente nulla, perché, ripeto, il numero di quelli che invece non ci sono arrivati alle droghe pesanti è di gran lunga superiore. Ma dato da chi l'hai avuto, scusa. Ma è normale che sia così, non è che sarebbero tutti eroinomani, se no tutti quelli che hanno usato le droghe leggere arrivano alle droghe pesanti, ci sarebbe un mondo di eroinomani allora e cocainomani, cosa che non è così. Chiedere a chi fuma regolarmente le canne e dice che non fanno nulla, di chiedergli se riescono a stare per 2 settimane senza fumare, visto che non sono dipendenti. No, ma quella, una certa dipendenza c'è anche con le droghe leggere, non c'è dubbio. E ciao. Metti alla guida di una macchina una persona bene, sotto l'effetto della marijuana o dell'hashish. Ma chi ha detto che bisogna andare alla guida, bisogna guidare sotto effetto di droga? Perché le persone che non le considerano pericolose lo fanno. Vabbè, ma sbagliano, cioè chi guida la macchina si strafà di canne è un coglione, diciamo la verità. È un bambino di 15 anni che si vede la droga davanti alle scuole, se pensa che una cosa che non fa nulla, tu stai legando due cose, stai mettendo insieme due cose, cioè il fatto droghe. Che io sono a favore della legalizzazione delle droghe leggere, il fatto che io voglio la droga libera per tutti davanti alle scuole e voglio un mondo di persone che guidano la macchina che sono lì a farsi le canne e a andare contro gli altri. Vabbè. Rispetto il tuo pensiero, io voglio un mondo senza le droghe, ma non esiste, non può esistere. Traffico, no, 30 secondi. Io non ce lo vedevo là, non ce lo vedevo lì, in quella roba lì, in quella televisione, in quella trasmissione che alla fine, sì, certo, è un po' vera, perché le persone... Ma di Fazio stai parlando? No. Io non ce lo vedevo, sto parlando del personaggio che è in collegamento con... Non ce lo vedevo in quella trasmissione, che certamente è un po' vera, perché le persone, per carità, Zagrebelsky, soffrono. No, non c'entra niente, Zagrebelsky. No. Le persone soffrono anche di fame e patiscono delle situazioni complicate, però non ce lo vedevo perché un po' bisogna recitare in televisione, no? Un po' bisogna recitare. E poi uno si fa prendere così da momenti di annebbiamento, dice voglio rinunciare a quello che è stata tutta la mia vita fino adesso. Poi torna qui, riprende un po' di forza e dice no. Rocco Siffredi, ciao Rocco! Grande, grande! Come stai? Grandi, tutte e due. Come stai? Devo dirti... Dimmi. Dall'altro ieri sto alla grande, mia moglie è una grandissima moglie, tu sai, mi ha ritirato su. Lo so, io la conosco e devo dire che è la vera forza. Cioè, Rocco, dimmi la verità, senza tua moglie dove saresti finito? Dimmela tutta, ci hai pensato mille volte, dimmi dove saresti finito. Nel cesso. Nel cesso, cioè, saresti finito nel cesso. Saresti già... Probabilmente lo sai che senza tua moglie secondo me ci avresti, tipo, saresti morto per malattie gravissime e cose di questo tipo. No, in realtà non sarei un uomo felice senza mia moglie, questo è sicuro, trassicuro. Poi... morto con malattie o non lo so, perché sono 30 anni che vado sul set e che rischio, quindi un po' di culo ce l'ho avuto finora. Non c'ha mai avuto paura di prenderti l'AIDS? Tante volte, specialmente quando mi sono nati ragazzi, mi sono detto, ma te l'immagini... Esatto, un padre malato. Beccarla, proprio ultimamente mi sono detto, te l'immagini beccarmela a 50 anni, che coglione che sarei, per andare sul lavoro, che poi fino all'altro ieri era una scusa più o meno valida, sì. Poi in realtà mi sono detto, è troppo una scusa, non è più valido, quindi anche questo ha sommato la mia decisione, insomma. Però la decisione, adesso qui ci sono varie voci, perché poi l'isola, non che tu avessi bisogno dell'isola per... No, per essere famoso, perché già lo sei, diciamo la verità, Rocco Siffredi è una delle persone più italiane più conosciute all'estero, cioè, questa è la anche realtà. Anche se poi una battutina che ho fatto sull'isola ha fatto incazzare tutti, cioè? Perché lì c'erano delle persone che io non conoscevo, ma in realtà. Poi effettivamente sono famosi in Italia, come Valerio Scanu, io non ho visto Sanremo, non lo conoscevo, poi è molto famoso. C'era Riccardo Montovoli, che io non avevo mai visto prima, e siccome ho avuto un po' di battibecchi con lui, io ho sempre, tu mi conosci molto bene, man, sì. Io ironizzo sempre, anche quando sono scoglionato, e mi ricordo gli ho fatto una battuta dicendogli, ma come farai a vincere contro di me, se sei famoso quanto il mio coglione sinistro ma un terzo, perché è più piccolo del destro, ma era una battuta. Lui si è incazzato, se aveva un coltello, ma coltellava. Ma io mi aspettavo che lui mi dicesse, e tu sei un cazzo che cammina, che respira, certo, sei un cazzo e basta. Io mi aspettavo questa risposta. E no? Non ti saresti manco arrabbiato? E non ti saresti manco arrabbiato? Ma diciamo, no, ma io lo so che sono un cazzo, che sono stato un cazzo per tutti quanti per molti anni. Poi, ma adesso chi mi conosce sa che non sono solo quello. Però ho sempre ironizzato sul mio lavoro, non mi prendo mai sul serio. Però in realtà, se vogliamo mettere il discorso che dicevi prima, conosciuti, Isola dei Famosi, io tanti non li conoscevo. Tanti non li conoscevo. Diciamo quasi nessuno, no. Diciamo la verità, cioè quasi nessuno, così no, per senti vabbè, Cecilia, sì. Rodriguez, allora Cecilia. Pierluigi Diaco lo conoscevo, l'avevo visto in televisione, e quando l'ho visto all'inizio mi sono detto, ammazza, questo deve essere uno stronzo, perché in televisione tu lo vedi molto aggressivo, in realtà era il più figo sull'isola, peccato che non ci siamo capiti subito. Ma secondo lui... te com'è, un po' com'è sessualmente? No, lui mi ha fatto una battuta, siccome lui mi ha aiutato anche a capire me stesso, mi ha fatto una battuta dicendomi, Rocco, noi dobbiamo portare la cultura, non la pornografia sull'isola, mi raccomando... Io mi sono detto, questo mi si vuole inculare, sicuro. E allora... Ma da che punto di vista? Da che punto di vista? No, dal punto di vista che mi fa passare per un ignorante. E invece è stata la mia diffidenza, da persona diffidente che con 30 anni di pornografia, stando in un ambiente che purtroppo ti devi essere diffidente. Io ti ricordi quante volte ti ho detto, ho dovuto camminare spesso sulla merda senza affondare. E come no, te la certo, ricordi? Certo. Ecco. Purtroppo il mio mondo è anche fatto molto di questo, e quindi mi sono detto, diffida di questo tipo. Poi alla fine era il più figo di tutti. No, ma io lo conosco Pierluigi da una vita, e so com'è fatto, so che al di là di qualche... È un grande. Ma no, ma io ho sempre avuto il sospetto. Ma perché, per esempio, sulla sua sessualità, no? Cioè, come quale? Su di quella di Pierluigi. Ma non lo so, perché Pierluigi sull'isola non si scopava e non si parlava molto di sesso, quindi purtroppo... Senti, vabbè, torniamo alla... non ho capito, ma hai davvero rinunciato oppure no? Perché ci sono voci le più disparate qui, sembra che tu poi... Allora, tu sai che io sono sempre una persona molto sincera. Perché man? Io l'isola, quando me l'hanno proposta, senza ipocrisia... Mi hanno pagato molto bene. Quanto ti hanno pagato? Si può sapere? No. Io ho detto, no, vabbè, ma non interessa. Mi hanno pagato bene. Io ho detto, i due mesi ne approfitto. Mia moglie non voleva che io ci andassi, perché mi ha detto, Rocco, tu sei una persona un po' asociale, litighi con qualcuno, sei impulsivo. Gli ho detto, amore, non ti preoccupare, io voglio andare per altro, però tu sai che io sono ritornato a fare quello che facevo peggio di prima, in situazioni peggiori. Sì. Io gli ultimi... alla fine anno 2014 ho passato veramente delle serate terribili. Andavo in macchina velocissimo, mi volevo ammazzare, ma non sto scherzando. Ma perché? Cioè, speravo perché avevo di nuovo ripreso quella strada della dipendenza in maniera dell'ossessione estrema. Cioè andavi con chiunque, tutto, chiunque, qualsiasi cosa, più schifosa era meglio era, però non mi divertivo neanche, e sapevo già che andavo a fare una merda, e quando ho toccato il pianeta figli, che mio figlio mi dice: papà, andiamo di qua, andiamo a fare un po' di moto. Io gli dicevo: aspetta, devo andare in ufficio, poi torno, e lo mollavo, tornavo. E non lo mollavi passavo, per fare e cosa? Poi non no. Lui giustamente si era dedicato ad altro, però si era abituato a non avere più un padre. E tornare la sera da mia moglie che mi dice: dove vai? Vado di là, poi stavo ore e ore e ore sui siti a vedere, ma siti d'incontro, a vedere, perdevo ore e ore, poi arrivi in normale, arrivi a mezzanotte da tua moglie, la trovi a dormire con un viso molto demoralizzato, del tipo: oramai mi sono riabituata pure a questo. Io ho sofferto di una solitudine che l'isola non è neanche paragonabile. L'isola per me, adesso tu lo sai che io sono una persona molto sincera. Come no? Io non sono mai stato uno psicologo, mai da un medico. Ho detto: che cazzo mi dicono? Lascia perdere il tuo lavoro. Che mi dico? Cosa possono dirmi? Invece? È stato un grande sbaglio, perché poi alla fine ho avuto modo di fare una terapia che è avvenuta nel momento in cui Montovoli mi ha cacciato, perché il programma mi ha ridato la possibilità di ritornare, ma in un mondo diverso. Cioè, sei da cioè è solo, stata una terapia? Tutto... È stata una terapia per te l'isola? Incredibile terapia, ma surreale. No, ma spiegami, spiegami questa cosa qua della macchina. No, ma quella della macchina, cioè tu a un certo punto volevi farla finita con la macchina? No, qualsiasi cosa che facevo, la facevo con una grande tranquillità. Se andavo a 200 all'ora e mi schiantavo, ho detto: almeno non devo preoccuparmi più. Questo cioè, hai pensato seriamente di morire? Questa è la fia a dicembre? Sì, perché credimi, man, l'impulso dell'uccello, quando ti prende terribile, tu non capisci più nulla e decide tutto lui, ma c'è che cazzo vivi a fare? Poi ti dico, oltre questo, vedere questa bella famiglia, vedere tutto questo quadro che tu sacrificavi, perfetto, che tu sacrificavi per andare da sui siti, le donne, eccetera, a un certo punto hai detto: vabbè, basta, non ce la faccio più, mi vado a schiantare con la macchina. Più o meno ho capito questo, no? Hai capito bene, ma non è mi vado a schiantare, significa non fare più attenzione. Mentre io da appena sono tornato sto godendo mia moglie, i miei figli, ogni attimo con loro. Prima non lo facevo più. Allora, fermi tutti, c'è la pubblicità. Quello che avete sentito non è la recita, cioè non è il cinema, non è la non è finto. Io lo conosco Rocco da tanto tempo, non si può dire che siamo amici perché non ci frequentiamo, diciamo, però lo sento come amico ed è tutto vero. Cioè non è la farsa, la farsa, la nuova farsa dopo l'Isola dei Famosi. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. Collegamento dall'Ungheria, Rocco Siffredi, mi sembra in versione Family Day. In versione rasserenata, in versione tranquilla. Volevo sapere da Rocco una cosa, ma allora perché ho letto una cosa diversa ieri o oggi, non mi ricordo dove, che dopo l'isola all'inizio sei stato malissimo, che in realtà questa rinuncia all'hard non è definitiva. È definitiva o no? No, ma totalmente definitiva, una cosa chiusa, oramai è una decisione, ma non è come... Allora, a 40 anni ti ricordi che ho deciso di smettere? Come no, sì. I bambini crescevano, 6-7 anni, 8 anni, ed era quasi una condizione mia a non voler, a voler mascherare un po' l'attività del papà fino allora. Mi sono detto, per quando arrivano a 16-18 anni... si saranno abituati a un padre che era un ex porno star. Poi in realtà è durato un paio d'anni, cioè un paio d'anni con cui sarò stato contro 3.000 donne e non solo. E dopodiché con mia moglie giustamente ne abbiamo parlato, mi ha detto: ma torna a fare il porno, nessuno ti ha chiesto di smettere se stai male, se ti devi ridurre così. Sì. Quindi quando sono tornato con mille dubbi, però sono tornato molto... convinto, cioè mi sono detto: se è questo che devo continuare a fare, se è questo che mi salva da quello che è questa dipendenza, sfogati lì su. Però in realtà di giorno in giorno lo vivo sempre peggio. Cioè, tu devi sapere che io ho dei figli, uno adesso ha 18 anni, fa 19 fra qualche giorno, e l'altro ce n'ha 15. Quello di 18 anni è la fidanzata, 19 anni qui dentro casa spesso. Sono le stesse donne con cui io devo girare, perché la maggior parte delle ragazze ha quell'età lì. Ti fa impressione, hanno quell'età lì. e per me c'era di più e in più e in più imbarazzo. Io non ho avuto, cioè, ecco, dimmi. Ti devo dire una cosa importante: non ho avuto un problema col porno in generale, io ho avuto un problema con me stesso, non col porno, non con le donne, con me stesso. Mi sono detto: tua moglie, sono 22 anni che ha accettato questo, sarà arrivato il momento per dedicarti solo a lei? Ma adesso che farai? Mi dedico solo a mia moglie, chiuso. Ma la produzione, cioè, produzione di film, sì, cioè dietro la telecamera, cioè a livello organizzativo. Ma è normale, ma mia moglie verrà sul set a truccare le donne, io farò la regia, produzione, come so fare molto molto bene ed è quello che mi piace fare. Speriamo fuori, non lo tiro più. Devo dirti una cosa veramente importante. Dimmi. L'isola, questi due mesi d'astinenza mi hanno dato uno dei periodi più belli e rilassati della mia vita, perché le pulsioni che mi mandavano al manicomio non ce l'ho più avute, e ti dico, ancora oggi sono rientrato da una settimana, dorme ancora e non lo sveglio fino a quando manco con tua moglie. Un po' di timori a svegliarlo ce l'ho, però ti dico, sono strasicuro che non succederà nulla. E con tua moglie ancora non hai fatto niente? No. E lei? La prende bene? Lei è tranquilla, perché mi dice: Rocco, voglio che si ricominci in maniera naturale quando vuoi. Guarda, una grande moglie, una santa. Quindi ti assicuro, io adesso non ho paura nel discorso della... Però ma se ricomincia, vai in clinica, che fai? Se ricomincia questa ossessione? No. Allora sai chi è il mio medico oggi? Chi è? Mia moglie. Vabbè, quello si dice sempre, però, dai, medico. No, non si dice, perché io non l'ho mai fatto prima. Il mio grande sbaglio è quello di non aver mai parlato con mia moglie bene di queste cose qua. Io ho deciso, ne abbiamo già parlato, se dovessi avere degli impulsi, delle stronzate, mi viene da... prendo 100 euro e li vado a mettere sul conto di mio figlio. Cioè, non vado più... non voglio più, basta. Ma sai, la dipendenza sono cazzi, come si dice proprio in genere. Cioè, nel senso che la cosa che mi dispiace è che dal mio mondo stanno avendo dei dubbi. Cioè, dall'America Valentina Nappi mi ha appena scritto: mediaticamente ti stanno mettendo nello stesso calderone delle vergini di ritorno, italiane sciacquette varie, te lo leggo. Capisco che l'esperienza sull'isola possa essere stata traumatica, ma è triste vedere uno dei più grandi pornoattori della storia ridotto così. Tu non sei dipendente dal sesso, sono altri che vogliono fartelo credere. Rispondi. Stanno usando la tua vicenda personale, l'immagine della tua famiglia in maniera tendenziosa. Rispondile, perché Ho già risposto. Valentina, ti credevo negli States immersa nel lavoro. Non so esattamente se tiri a indovinare o dai giudizi un po' affrettati e controcorrente come al solito tuo. Ma pornoattore ridotto così, non so cosa vuol dire per te. Comunque non ho avuto nessuna esperienza traumatica, sono andato esclusivamente per provare soluzioni ai problemi che tu non puoi sapere sulla mia vita. Un bacio, Rock. E lì mi scrive: i media stanno dicendo che tu sei un porno pentito, dopo 30 anni di carriera si è accorto che hai anche una famiglia. Effettivamente questo è il messaggio che volevi far passare. Mi riferivo esclusivamente a quello che i media stanno dicendo. Ma perché i media hanno mai detto questo? Ma è uno scontro come quello nel PD. Il problema è questo, che Valentina Nappi è una ragazza giovane che è appena entrata in questo mondo qua e dice che il porno è la sua vita. Sai cosa ho detto a mia moglie? 3 anni io sono entrata tramite me, in 3 anni è cambiata tantissimo, in 30 può succedere che diventi sesso dipendente. Non è che hai detto che il porno fa tutto schifo, non è che hai ripudiato quel mondo come vuole far credere qualcuno. Non ho mai detto, mai lo farò. Hai fatto i soldi, mi ha dato tutto quello che ho. Tua fortuna è quella là. Cicciolina, per esempio, a noi ci ha detto recentemente, se l'è presa con te, la mitica Cicciolina, dicendo devi baciare dove passa lei, che ormai sei finito, che non capisce perché vuoi abbandonare il porno, che devi essere riconoscente a lei. Ma che c'è tra di voi? Non ho capito. Io devo essere riconoscente a lei per cosa? Ma perché sei stata lei che ti ha portato. Poi dice che vuole fare un film dopo 28 anni, vuole rifare un film porno dopo 28 anni. Io ho detto, guarda, mi sa che. Guarda, io posso risponderti: la mitica Cicciolina è stata la mitica Cicciolina perché mi ha fatto fare tante di quelle seghe prima di incontrarla. Quindi per me resta questo. Da lì a cosa ha deciso lei nella sua vita? Io so che Cicciolina è una persona molto sola. Io ho la fortuna di avere una famiglia fantastica. Se domani. Devo dire, arrivederci al porno per il bene della mia famiglia e poi non ci penso neanche mezzo secondo. Invece lei? Perché il porno mi ha dato tantissimo, ma la mia famiglia non neanche è paragonabile. E lei invece? Di cosa parliamo? E lei? E lei dice che è sola? Cicciolina è sola, poverina, è sola, quindi capisco bene chi ha voglia di tornare davanti alla telecamera, così come fanno le donne di 70 anni qui a Budapest, con la quale ho avuto il problema con le Iene, quando decidono di fare le pornostar perché sono donne sole, è giusto che lo facciano, non ho mai detto nulla, però io credo che se mia moglie gli si sono agli occhi brillanti, è tornata a sorridere quando sono tornato e che gli ho detto che ho voglia solo di te, se mia moglie è d'accordo, perché io dovrei essere d'accordo o non dovrei essere d'accordo col mondo intero? Lo sai cosa conta per me, man? Cosa? Solo ed esclusivamente mia moglie e i miei figli, il resto. Senti, senti una cosa, ma tu l'isola la rifaresti? Guarda, la rifarei se dovevo fare una esperienza simile, se no sarebbe una noia, perché ti dico... Cioè, se non fosse l'hai fatto solo per guarire da questa roba qua, diciamo, per superare questa roba. Altrimenti, ma a me sembra che dal primo giorno l'ho chiesto. Io ho chiesto in più confessionali, ho detto mandatemi da solo perché mi sto facendo due coglioni. Lì si parlava solo di quanti giorni mancano e di cosa mangiamo quando usciamo. Beati loro che non hanno problemi. Io avevo bisogno di altro. Sì. Senti, ma i soldi comunque pure, l'hai fatto pure per soldi, non è che non l'hai fatto per soldi. Allora, il primo contatto è venuto da quello, non potevo io immaginare che l'isola è una cura per queste cose qua. Credimi, ma non hai avuto con qualche donna qualche tentazione di saltarle addosso, eccetera? Ce l'hai avuto all'inizio qualche cosa, qualche pulsione? Cioè, chi era quella che ti ha rapato? Con Valerio Schianu c'aveva il più bel culo dell'isola, il resto no. Ma dai, veramente stai dicendo? Veramente? No, una volta ho guardato un po' i sederi prima che arrivasse Cristina. Guardavo un po' di sedere e ho detto: Valerio, ma il più bel culo ce l'hai tu, però non è una battuta così. Lui si è messo. Vabbè, ma uno che ti attirava, c'era una che ti attirava lì. Cioè, Cristina è quella che ti attirava di più. Cioè, ma sì, era la più carina di tutte. Ma c'è stato qualche erezione, come dire, qualche sommovimento? No, con lei. Sesso avete fatto? No, zero. Ma... toccamenti, che ne so. Zero e porto zero, ma non l'ha fatto nessuno, non è che non l'ho fatto e io. E il famoso onanismo, nessuno. Cioè dire la masturbazione? Guarda, ti dico la verità. Dimmi dopo la verità. 10 giorni non sentivo più nulla. E nei primi 10? E nei primi 10 qualcosa hai fatto? Nei primi 10 qualcosa hai fatto? Dai, qualche sega nei primi 10? No, l'ho fatto in hotel prima di. Siccome abbiamo avuto una settimana di stop perché c'erano uragani. E in che giro, hai fatto? Ecco, lì ho avuto un paio di tre pippe su una settimana, era una buona media per farsi tutta l'isola. Però stanno poi bloccando le rotative del Corriere. No, poi siamo andati sul live e devo dirti la verità, lì tra il dormire per terra, sporchi, problemi, abbiamo beccato subito freddo, acqua e tutto il resto, è passata la fantasia. Senti, ma a questo punto, dato che sei in questa situazione, io la candidatura in Italia in politica ce la vedo, Parenzo, cioè a questo punto potrebbe fare, amico mio, dai, su. A questo punto sì, la vedo più. La politica è sempre una cosa molto seria, quindi il presidente continua a mantenere fare alle persone serie. Il presidente continua a mantenere un sacco di ragazzine, come hai visto, un sacco di ragazze. L'ho visto, appena sono rientrato, però devo dirti una storia fighissima. Dimmi la storia fighissima. L'arrivo, io sono riuscito, grazie all'isola, a salire sull'aereo del presidente. Non mi chiedere perché e per come, non te lo dico, però ma quando? Mi hanno portato sull'aereo per fare una ripresa ed è stato fantastico. Ma c'era pure lui? Fantastico. C'era anche lui? No, non c'era lui. No. Non c'era lui. Però mi sono sentito un po' a casa perché mi sono detto su questo aereo però c'è passato il parterre del parterre del parterre del top. Ma altro che top, il top delle donne ce l'hai avuto te, altro che Berlusconi. Cioè il top delle donne ce l'hai avuto te, no? Ma tu ce l'hai avuto te, no Berlusconi, il top delle donne. Ma non credo proprio, non ma credo figurati, proprio. Ho avuto tante belle donne ma e tantissima dai. Fantasia, tantissimo sex. Però quello che ha avuto lui mi sa che... Ma insomma, dai, su, ma assolutamente. Ma tu hai avuto molte più donne, soprattutto hai avuto molte più belle donne rispetto a Berlusconi. Poi Berlusconi le pagava, te non le hai mai pagato. Ah sì, ne hai pagato pure delle donne. No, diciamo che sì. Ultimamente le ho pagate tanto anche io, però non erano così belle come le sue. Va bene, Rocco, ti abbraccio, a presto. Senti, ciao, un grande abbraccio. Way man, a tutti tanto ci vediamo a Roma, man, ce lo sai, dove ci dobbiamo vedere. Un abbraccio. Ciao. Ma come farai a vincere contro di me? Se sei famoso quanto il mio coglione sinistro, ma un terzo perché è più piccolo del destro. No, caro Parenzo, ho avuto l'impressione che tu non credessi molto a questa confessione a cuore aperto del professore Rocco Siffredi. No, all'inizio no, ero un po' tiepido. Poi dopo, anche dalla voce, dalle cose che ho detto, mi è sembrato sincero, mi è sembrato pronto per fare l'editorialista alla croce di Adinolfi. Ma non esagerare, detto, dai, sempre... I valori della famiglia... No, scherzi a parte, però la famiglia, bello, insomma, questo Siffredi in versione family day. Family day, addirittura, beh, sì. Insomma, ha detto... La famiglia, lei la reputazione dei figli, no, ma c'era un passaggio in particolare la reputazione dei figli, la fidanzata del figlio, sì, la fidanzata del figlio forte, che ha praticamente la stessa età delle donne che di lui si faceva che lui sul set incontrava, no, sul delle set. Tantissime che si è fatto sul set, tantissime, è forte però, Allora vi faccio ascoltare qualcosa di incredibile. La senatrice Pezzopane è una senatrice del Partito Democratico, come sapete, no? Pezzopane è stata anche sindaco di L'Aquila, se non sbaglio. Presidente della provincia? No, forse presidente della provincia, ha ragione, sì, presidente della provincia, sì, bravo. Mentre c'era Cialente, sindaco di L'Aquila ai tempi del terremoto. No, signora Pezzopane poi è diventata senatrice perché comunque L'Aquila, la provincia, no, poi insomma ha delle qualità. E a un certo punto è impazzita, secondo me, si è messa con il signor Coccia con l'aiuta, uno che ha fatto, credo, delle trasmissioni, era un tronista. No, bodybuilder, uomini e donne, non so, questo non è un reato, ambiente. No, per carità, cose degnissime, cose super degne. No, anche mettersi con il signor Coccia non è un delitto. Però devo farti ascoltare alcune frasi perché sono abbastanza incredibili. Allora, Pezzopane, senti questa cosa qua. Chiaramente non è che mi ha fatto piacere questa vicenda, perché mi dà il segnale che siamo attenzionati in maniera morbosa e che su di noi continuano a speculare. Penso che quelle foto siano state pagate a carissimo prezzo. Allora, l'antefatto, per chi è interessato non allo spread, non all'andamento della borsa, non allo stato dell'economia e della politica italiana, ma alle avventure della senatrice del PD Pezzopane, è che sono uscite su alcuni giornali delle foto del signor Coccia che si accompagnava, credo, davanti a un albergo con un'altra donzella. Ai. Capito? Però la frase incredibile della Pezzopane è che stanno speculando sulla nostra storia. Ma amica mia, senatrice Pezzopane, che non è tutto insieme, è Pezzopane. Sì, è una persona sola. È una persona sola, senatrice, sì. Pezzopane. Siete voi che andate per una trasmissione e per l'altra. Siete un giorno sì e l'altro pure della signora professoressa maestra Barbara D'Urso. Non sono io, no, non sono io. Poi se lui ti tradisce, non ti tradisce, quello so, chi se ne frega, va benissimo, la grande storia, va raccontata, quello che volete. Però non ti puoi stupire che c'è un'attenzione morbosa. Poi l'altro Coccia con l'aiuta che dice non sono abituato al gossip. No, vabbè, io alcune cose veramente non le posso sentire, perché uno che dice non sono abituato al gossip e vive di gossip. Io non sono abituato al gossip, non sono abituato a questo genere di giornali, io provengo, sono un ragazzo semplice, sono sempre stato abituato a stare in mezzo alla gente, non ho mai avuto, non sono mai stato vabbè, figlio. Hai fatto comunque dei concorsi di bellezza, sì, non è che sei, sì, però, che arrivi dalla... Sì, però non ho mai fatto una televisione così finora. Importante, sì, però non ho mai fatto giornali, io mi sono ritrovato in questa situazione per un mio errore di ingenuità. Mi sono trovato in questa situazione. Amico mio, cercate le foto, andate nelle trasmissioni, vi fate fotografare. Questa è la realtà. Basta cazzate, dai. Angelo D'Asti, Angelo. Buonasera. Dimmi. Niente, volevo dire che visto la piega che ha preso la sua trasmissione, le quale piega? Cambiare il titolo. Quale piega? Insomma, non è più la zanzara di una volta, quando era un po' stuzzichina. Non so, adesso... non so di cosa sta parlando. Ah, molto semplice, le consiglio di chiamare la sua trasmissione la cloaca. La cloaca, bene, ma è un'idea, eh? Non è male. La cloaca. Ottimo. Secondo me, grande suggerimento, Angelo. E analizza bene la situazione. Però vedo che lei ancora si premura di chiamare, di stare lì, no? Di prendere il telefono e stare anche una quindicina, una ventina di minuti in attesa di essere richiamato, caro Angelo. Come mai? Come mai lei chiama? Vabbè. Ma niente, volevo semplicemente dirle che. Sì. La trasmissione, secondo me, avendo perso la sua originalità, sì, adesso si è andata giù per una strada che è diversa, per è una strada, cambiare, sì, il titolo. Per una ma strada. Io non critico, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Per carità, per io carità. Non sono un puritano, non sono un razzista, non sono. Ma allora perché dovremmo cambiare titolo? Scusi, perché dovremmo cambiare titolo? Non ci va di continuare a chiamarla in questo modo? Secondo me, ma secondo me il titolo deve un po' illustrare il sugo della trasmissione. Il sugo, sì. Certo. E ultimamente mi sembra che agiriamo più da quelle parti. Franco da Milano, grazie. Franco. Ciao Giuseppe. Dimmi, caro, dimmi. Senti, io che ho chiamato il centralino perché quando ho sentito la storia di Rock mi sono immedesimato. Io sono un sesso dipendente. E che vuol dire un sesso dipendente? Scusami. Sesso dipendente vuol dire che è una patologia seria. Cioè, che fai? Fammi alcuni esempi di quello che ti succede, perché sennò non capisco. No, quello che mi è successo e di cosa mi è capitato nella mia vita negli ultimi 7-8 anni. Io ero sposato da 20 anni, ho mandato carte 48 in matrimonio proprio per via di questa patologia. Sì. Io ho fatto diverse cure rispettivamente a questa cosa. Ma cure di che tipo? Farmaci? Cure, praticamente sono stato in comunità, sono stato più volte addirittura. No, davvero, Giuseppe, è una cosa seria. No, ma a che eccesso arrivavi, Franco? No, per capire, non ti sto prendendo per il culo, dimmi. No, è una cosa seria, perché si arriva oltre al sesso, si arriva al cyber, si arriva alle parafilie, arriva alle border. Parafilie sul sesso, per cui si arriva ad avere una serie di rapporti che vanno al di là di uomo-donna, al di là di quello che può essere la bellezza di una donna. Infatti su quello che ha detto Rocco io ne convengo molto, perché è una cosa seria. Il fatto che Rocco dica no, ma io smetto quando voglio, cazzate, bisogna curarla questa cosa. Poi il fatto che lui dica torno nel set con mia moglie a truccare le donne, no, qua c'è una situazione di astinenza, c'è una situazione di... Ho capito, ma tu come l'hai curato o sei ancora un po' dipendente? Io purtroppo l'ho curata, poi sono tornato, poi l'ho ricurata di nuovo perché ci sono state delle varie ricadute e è andata a fanculo il mio matrimonio praticamente. Vabbè, ma fammi un esempio, al di là di questo, di raptus, in che modo si... Allora, te lo spiego in termini tecnico, va bene, perché tanto io sono stato diverse volte in queste comunità, adesso mi viene da sorridere, però c'è da piangere. C'è un acting out, praticamente c'è una messa in atto, che tu quando interrompi questa messa in atto stai male come un cane. Cioè, se tu non metti a compimento quello che è il tuo sfogo sessuale, stai male come una bestia, capito? E allora il problema è la cura, il problema è curarsi, perché è una patologia. Anche con i farmaci? Anche i farmaci sono un lenitivo, poi il fatto che tu debba essere continuamente monitorato, dipendente non si cura effettivamente tutta la patologia, cioè devi essere sempre in allarme. Va bene, dunque questa testimonianza di Rocco un po' ti ha colpito, diciamo, Franco, questo è il punto. Mamma, ha fatto venire i brividi. Va bene, ti abbraccio, dai, ti abbraccio. Ma ciao, Gianni, ciao. Da Verona, Gianni, vai. Sì, ciao. Dimmi, caro. Volevo chiedere a Parenzo, è un consiglio che gli voglio dare, di dare il suo numero di telefono di casa per invitare un po' di Rom a casa sua a bere il caffè. Diamo un po' il numero di Parenzo. Diamo il numero di Parenzo e lasciamolo nei campi Rom. Potete venire tranquillamente in via a prendere un caffè ogni mattina dalle 10 in poi. No, signori, siccome che è un po' che oramai lo sento, parlare in difesa in una maniera veramente... Beh, ha proposto prima quel signore che aveva tranquillamente detto di avere passato una, una adolescenza, normale, forse anche dopo l'adolescenza, a rubare a destra e a manca. Guarda, se giustifica una persona del genere è giusto che lui dia il numero di telefono, momento, di casa, e così lo invita a bere il caffè. Non ho giustificato niente, ho detto che quel signore lì ha pagato, minuto e 44 secondi, quello lì ha detto che ha pagato perché ha fatto 6 mesi, un anno, non mi ricordo dieci mesi, pure poco, ha detto, per quello che ho fatto. Sì, lo ha detto. Io, una persona così, un non momento, gli voglio neanche non erano rivolgere questi lo sguardo, un momento, non parlare. Un momento, i patti non erano questi. Allora, ho detto semplicemente che negli Stati Uniti, ad esempio, i criminali li prendono. Vabbè, non succede sempre quello che dici. Mettono, e li prendono come super consulenti, sì, della succede, polizia, come dell'FBI, sì, ma non i ladri, non i ladri Roma, dai. Anche, i ladri, e non giustificare non come hai sempre forse, fatto. Ma non giustifico nessun ladro. Inviti, visto che sono amici caro tuoi. Gianni da non so dove. No, da Verona. Prendo, davvero, benissimo. Caro Gianni da Verona. A proposito, lei voterà Tosi? Certamente. Anche no, alla regione. Tosi o il signor... No, anche... Ah, certamente. Alla regione. Tosi, Zaio, Lamoretti. No, Tosi. Io voto Tosi. Vota Tosi pure la regione. Sì, ciao Gianni. Sono stato lì alla Gran Guardia l'altra sera a trovarvi, vi ho anche salutato. Ah, non ti ho visto. Grande Gianni, grande. Ciao. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guarda avanti. Novità da Radio Padania, come sempre. Oh. Novità da Radio Padania. Ascoltatori. Che ci hanno blobbato su Radio 24, siamo andati in onda anche di lì, ecco. Quando sono le cose interessanti non se ne lasciano mica scappare così. Sai cosa sono quelle due morti di fame? Perché se non dicessero quelle puttanate che dicono, non avrebbero altro lavoro da fare. Sì, ma morti di fame un po' meno, perché c'hanno il portafoglio bello gonfio, purtroppo. Ci sono dei poveretti dentro, ricordati. Dentro. Fai vedere quanto è bella la tua terra. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Casa Pound, tutta questa roba qua, non parliamo più di secessione, eccetera, e vedere la bandiera italiana mi viene il vomito. Beh, giustamente questo ascoltatore di Radio Padania dice Casa Pound, queste bandiere italiane, beh, la secessione non si parla più, mi viene il vomito. Beata sincerità. Sono i docenti quelli che si devono spogliare, far palpare, non l'inverso, a partire dalla Boldrini. Oh mamma mia, se censuro subito, la Boldrini nuda, no, se devo scegliere, insomma, una Boschi o qualcosa. Signor Barin, sentilo ancora. O persone semplicemente che ce l'hanno con noi occidentali, perché le nostre donne sono tutte puttane, vanno in giro con i pantaloncini d'estate, mettono la minigonna, e per loro tu sei una puttana. E noi ci riempiamo di tutta questa gente che indovinello cosa farà appena ce l'avranno un pochino duro. Indovinello. Bene, questo è Varin che dice gli islamici tutti stupratori. Diciamo che Varin ha l'acutezza di un cricetto nella giostre, vedete il criceto che gira la ruotina? Ma non esagerare adesso. Ho visto una foto tua e di Varin abbracciati, non so dove. Sì, me l'hanno segnalata. Varin l'ho incontrato a Piazza del Popolo quando c'era quella famosa manifestazione di Salvini a Roma. Ma stai eri là, baci e abbracci. Allora lui mi ha visto. Sei una farsa totale, dai. Lui mi ha visto e mi ha detto: facciamoci la foto. Dico, figuriamoci, benissimo. Io, vabbè, ma credo. Ma dici delle cose che dovresti sputarli in faccia. Mi no? ha chiesto non di fare una foto. Mi ha chiesto. Stavi là sorridente, pappe ciccia. Un minuto di celebrità non lo si nega neanche a Varin. Ha chiesto una foto con me, gliel'ho concessa. Diciamo. Andiamo a Roma, Massimo, vai. Varin. Ah, finalmente, dottor Cruciani. Dimmi. Qual è che dimmi? 40 minuti. Io c'avevo una cassetta di cose da dirti 40 minuti fa. Adesso c'ho un vagone. Come faccio, Cruciani? Fai quello che ti pare, mica. Pure tu c'hai ragione. Fai come vuoi, vai, parti senza buonasera, odio il buonasera. No, poi rischio di essere senza senso. Ti avevo telefonato perché veramente da tanto tempo ti ascolto, e se non ci fossi tu veramente passerei in alcune serate, perché spesso ho anche cose più belle da fare, delle serate noiose, però La cosa che ho detto alla signorina molto gentile Silvia, mi ha risposto al telefono sulla motivazione, ti volevo chiamare e non riesco a capire se sei il Parenzo. So che è un giornalista e lo apprezzo pure, tranne per alcune vabbè, allora cose. Io invece no e allora adesso te lo dico, non cominciare a alzare il tono della voce. Ma no, ma se non vai al sole è un minuto e mezzo che stai parlando. Ma va bene, allora sfuma, attaccami il telefono. Non ti voglio attaccare perfetto, dai. Ci stavo arrivando, tento pure da parlare veloce. Ma sai che cosa mi ricordi? Ti spiego anche la motivazione. I vecchi giostrai, quelli che hanno le giostre, i caroselli, non i zingari, il giostraio vero e proprio, negli anni 40-50, quando le giostre non erano tecnologiche, c'è una certa cultura su queste cose. Ti spiego perché. Perché proprio i giostrai? Perché erano gli unici che la legge italiana, non li poteva punire quando facevano i ciarlatani. Nel senso, l'unica persona che per la costituzione... Ah, tu dici una specie di imbonitore. Esatto, guarda, mi hai fatto venire in mente, tu che l'hai preso per il culo, sempre simpaticamente, a Emilio Fede, che da una condanna lui l'ha sfangata dicendo, parlavo metaforicamente, si è dato del comico e l'ha sfangata. Buona Padania a tutti! Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sarebbe qualcun altro da esorcizzare qui, perché leggo incredibilmente che Michela Vittoria Brambilla, anzi, sì, deputato di Forza Italia, animalista convinta, spero che non l'abbia ancora scritto, ma propone una legge per punire chi mangia i conigli, cioè chi alleva, forse anche chi mangia. Perché vuole considerare i conigli degli animali da compagnia come gli altri, cioè sono intoccabili come i cani e come i gatti. I conigli. Quindi non si possono più mangiare in questo senso. Secondo lei, ovviamente, non si può mangiare il coniglio. E soprattutto chi alleva, e forse anche chi mangia, va punito anche con una multa da 1.000 a 5.000 euro e con pene da 4 mesi a 2 anni di carcere, quando ovviamente si tratta proprio di traffici di conigli. Cioè il coniglio va considerato come il cane e come il gatto, ma tu ti rendi conto o no? Uno viene pagato dalla nostra comunità per fare il deputato e vuole proporre leggi per considerare il coniglio un animale da compagnia. A me il coniglio piace moltissimo. Sai che è morbida la carne di coniglio? È morbidissima. Non ho mai mangiato il coniglio. Il coniglio l'hai mai mangiato? Perché tu non lo puoi mangiare da ebreo? No. Ah, davvero? Perché gli ebrei non possono mangiare i conigli? Perché è come il maiale, perché è complicato spiegarti. Non lo sapevo, il maiale, vabbè, d'accordo. Il maiale, d'accordo. Maiale lo sapevi? Sì, maiale lo sapevo, certo, lo sapevo. Maiale, non anche il coniglio, anche il cavallo, ad esempio. Non mi chiedere qual è l'origine di questa roba qui, perché, eccetera, perché ovviamente non lo so. Però il coniglio, perché fa parte della stessa famiglia, cioè tu non puoi mangiare il coniglio. Coniglio è stupendo, coniglio ogni tanto mangiato... Galline, faraone, coniglio in sicuramente salmì, sì. Coniglio con le olive, è una cosa pazzesca. Dietro il vetro c'è gente che si sta... Potete mangiare quello che vi pare, io non... Per me, se vai in Cina, tu hai mangiato anche il cane una volta. Beh, io l'ho fatto per orrore. L'ho fatto per sperimentare, cane, però diciamo orrore, il coniglio è buonissimo. Dunque, la signora Brambilla non ci rompa le scatole. Va continuato a mangiare il coniglio. Gli allevamenti di conigli vanno mantenuti, eccetera, eccetera. Allora, mi ha colpito molto della vicenda di cui tutti hanno parlato e continuano a parlare, cioè l'assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Mi ha colpito ovviamente la follia della giustizia italiana, perché è molto complicato spiegare a uno straniero che in Italia si può passare attraverso 5-6 gradi di giudizio, qualcuno che ti dà 25 anni, quelli che annullano, è molto complicato, diciamo la verità, non funziona questa roba, è difficilissimo spiegare. Però mi è arrivato nel pomeriggio un numero di telefono che voglio provare, il numero di telefono di un signore che si chiama Patrick Lumumba. Beh, certo. Che fu condannato a 3 anni perché Amanda Knox disse è stato lui ad ammazzare la signora Meredith. In realtà poi fu scagionato perché lui aveva degli alibi di ferro, signor era Patrick Lumumba. Pub, no? Sì, mi sembra che adesso sia in Polonia. Vediamo un po' se riusciamo a pizzicare. No, ma non risponde. Perché dici no? Non risponde. Ah, sì. Aspetta. Allo. Ciao Patrick, sono Giuseppe Cruciani, chiamo da Sole 24 Ore, come stai? Bene. Dall'Italia, dove ti trovi, in Italia o in Polonia? No, sono in Italia adesso. Ah, sei in Italia. Non Senti, ti volevo fare qualche domanda. Come hai vissuto questa assoluzione di Amanda e di Raffaele? No, guarda che quello che riguarda Raffaele, sì, veramente a me è una cosa che sinceramente non mi riguarda. Quindi... quella di Amanda, sinceramente, mi sono sentito molto, molto addolorato. Addolorato per l'assoluzione, dici? Sì, sì, sì. Ma perché secondo te è colpevole? Amanda. Certo che è colpevole. Beh, come certo? Secondo me... Ah, come? No, dico perché dici certo, perché aveva un buon avvocato. Forse. No, ma certo, ma non è un problema di buon avvocato. Cosa vuol dire? Se uno dipende da avvocati, se è per questo motivo, no? Cioè, secondo te si è salvata perché è perché è americana e perché ha un buon avvocato? Non per avvocato, per me perché è americana. Sì. Prima di tutto perché approfitta della posizione del suo paese, che è un paese potente. Gode della posizione del suo paese. Sì, sì. È quello che sto dicendo. E la seconda cosa che volevi dire qual era? Se ha fatto molti soldi. Sì. La giustizia di oggi sulla terra non condannano mai i ricchi. Senti, ma invece Sollecito secondo te non è colpevole? No, no, ma guarda che quello che ho detto prima, quello che lo Sollecito non ha mai nominato il mio nome. Sì. E quindi quando io parlo che Amanda secondo me è colpevole, sì, oltre le cose che sono certe, che sono nel suo favore, non è che dimostra la sua colpevolezza, sì, di più mi ha calunniato. Per quale motivo? Io non ci credo che lei, come per sotto stress così, perché ci sono altre ragazze che italiane e inglese sono state in primo momento, sì, anche interrogate dalla polizia. No, volevo chiederti, tu per quei giorni che hai fatto in carcere, per questa condanna che ha ricevuto Amanda per calunnia, non hai mai chiesto un risarcimento o l'hai già chiesto? No, dipende dalla sua volontà. Ah, dipende solo dalla sua volontà. E secondo te? Sì, sì. E secondo te? No, ma io penso, secondo voi, la stampa italiana che la descrivete come una santa, no? Siete voi che lo dovete dire a Santa Amanda, guarda che... A me mi dava l'impressione così. Senti, ma tu tornerai a Perugia prima o poi? No, io sono a Perugia. Ah, sei a Perugia? Sto parlando a Perugia, sì, sì. Sei a Perugia, non hai nessun problema a tornare a Perugia? E perché devo avere problemi? No, problemi psicologici, dico, a tornare a Perugia. No, no, ma cosa... problema psicologico no, non è lì di Perugia. Se io devo averlo, lo dovrò in confronto dello Stato italiano. Perché a me è lo Stato che mi ha danneggiato, anche se Amanda è una... la base, lei ha la base, ma sì, qualunque persona in difficoltà può tentare di fare quello che ha fatto Amanda, e lo Stato deve essere in grado di valutare. Sì, certo. Dunque, non ha valutato. Certo, tu vuoi quindi chiedere oltre tu Amanda, sì, oltre ad Amanda, oltre scusa, Amanda, sì, lo Stato nel mio ha una grandissima responsabilità che non ha riconosciuto. Questo l'ha riconosciuto solo con 8.000 euro. Poi, lei fa fiducia allo Stato, alla magistratura, vero? Io italiano, sì, abbastanza, lei, più o meno. E allora, se lei fa fiducia, quindi non dipende di quello che diranno loro, no? Tu non hai fiducia? Tu non hai fiducia nella magistratura, nella giustizia italiana? È un po', per dire una cosa è fiducioso o no, bisogna capirla bene prima di tutto. E io lo dico sinceramente, non ci capisco niente. È molto lunga e complicata, non ci capisco niente. È più quindi semplice la giustizia nel tuo paese, diciamo, è più semplice, no, da capire. No, ma che c'entra? Questo che non mi piace parlare, no, con voi, no? Ti chiedo. Ma che c'entra? No, ma è una domanda. Sai che ti dico a lei? Sai il mio paese dove si trova? Il terzo mondo. Vuoi paragonare un paese di terzo mondo? Devi paragonare l'Italia, gli Stati Uniti e la Germania o la Francia. Vabbè, allora ti faccio una domanda diretta. Okay. Secondo te chi ha ucciso Meredith? No, questo io non lo so. L'unica cosa che io so, Amanda deve sapere cosa è successo. Ah, Amanda deve sapere. Sì, sì. Sono sicuro e convinto, lei lo sa cosa è successo. Un'altra cosa è, questa storia ti ha rovinato la vita? Cioè Amanda, certo, con quella accusa che si è dimostrata? Certo, io ho perso, sai, il mio locale, anche se la stampa in Italia, come ho detto, no, sì, parla sempre di 14 giorni, sì, che sono stato in carcere, ma nessuna stampa ha mai messo in luce che il mio locale, la mia attività commerciale, sì, è stato sequestrato per 4 mesi e ho pagato l'affitto, sì, di 3.000 euro al mese per 4 mesi, 12.000 euro. E adesso come e campi? Nessuno aveva, no, ma io le delle, la famiglia, e passo, sono aiutato dalle mie famiglie. D'accordo. Parenza, hai un'ultima domanda da fare? No, volevo appunto capire che se tornasse indietro magari si prenderebbe anche... Si prenderebbe lei l'avvocato Buongiorno magari, no? Se tornasse indietro... No, anche io avevo pagato gli avvocati abbastanza soldi, non lo so, forse non in grado di pagare avvocato Buongiorno, ma sono in questa situazione perché ho pagato anche io tantissimi soldi all'avvocato. Senti, ma se tu lei che... avesse davanti oggi Amanda, no? Se ce l'avesse lì davanti per qualche secondo proprio... Che cosa le direbbe? Voi due, soli. Prima di tutto che non si scherza nella vita degli altri. Che... E poi seconda cosa, la legge italiana l'ha condannato, reato di calunnia nel mio confronto, che lei mi deve risarcire. Un'ultimissima cosa è questa. Che persona è Amanda? Una che mente, una che riesce a dissimulare, un'attrice? È una furba che sai che è. Sì. Lei è furba, è furbissima. Ho provato di dire anche ai inquirenti questa cosa, ma non hanno preso in considerazione. Ho detto: fate attenzione, lei è molto molto furba. Da far paura, veramente, guarda. Lei ha talenti, ha grandi talenti per recitare. No, talenti per dire che lei, se si fa come un'attrice del cinema, sarà veramente una grande attrice. No, non è una battuta, non è niente, non lo sto dicendo sul serio. Perché Amanda sa come ottenere cosa vuole. Va bene, grazie. Sono un padre di famiglia, di niente, grazie a voi. Ciao Patrick, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Il signor Lumumba era il signor Lumumba. Però t'ha cazziato a un certo punto, t'ha cazziato. Sì, Lumumba, t'ha cazziato. Non dire questa cosa, non dire questa cosa. Non volevo dire questa cosa. Cazziatore tremendo. Hai preso il cazziatore del signor Lumumba. Fatta domanda. Sabino da Milano, vai. Lumumbino ha risposto. Buonasera, senta, dimmi, io volevo parlare in merito alla liberalizzazione delle droghe. Sì. Io volevo dire, nel mio condominio ci saranno minimo 7 punti vendita di che cosa? Di droghe? Ma dove abiti? Scusa Sabino, Danno i dettagli, altrimenti qua mi fanno qualche cosa. A Quarto Giaro, dove abiti? Alle Vele. A Milano appunto, a Quarto Giaro, dove, per carità, non è che tutta... Una delle zone periferiche, no, ma non voglio dire cose precise. Vabbè, allora, insomma, ci sono un sacco di spacciatori, cocaina, eroina, eccetera. A me piacerebbe che ogni persona potrebbe andarsi a comprare la droga in ospedale o presso un CERT. Sì. E se uno viene beccato, che si è drogato ma non l'ha comprata a CERT, viene punito pesantemente. Vabbè, se uno cede lo spinello o la cede a un altro, viene punito pesantemente. Non mi piace né libera. E tanto meno mi piace che sia così per le strade. No, scusa, però Sabino, non vorrei che ti facessi anche tu, però, perché non abbiamo capito niente. Scusami questa dubbio, cosa qua. Il dubbio c'è. Il dubbio c'è, però. Sabino, allora, tu abiti, hai detto, in un condominio, in un palazzo dove è pieno di punti vendita di droga, hai detto, di tutti i tipi, giusto? Sì, ma ce n'è tanto, ma quando ne vuole, ma riconoscono tutti. Sì. Io, mi piacerebbe che uno la droga la dovrebbe vendere lo Stato. E uno la dovrebbe comprare dal tabaccaio necessariamente là, altrimenti è reato. Vabbè, ma non può essere reato. Sì, ma d'accordo, cioè dovrebbe essere legalizzata, tu dici, anche quella pesante. No, però non legalizzato come le macchinette, certo, legalizzato tutto. Vabbè, nei punti vendita, diciamo. Sì, ma ho capito benissimo. Certo. Purtroppo la legalizzazione delle droghe pesanti, che pure secondo me in parte andrebbe sperimentata, come fece la Zurigo tanti anni fa, in Italia è un grandissimo tabù, perché lo Stato che vende l'eroina, insomma, è una cosa un po' pesante, diciamo la verità. Lo Stato che vende la marijuana. Io la trovo sotto casa, o la trovo. Ma no, ma non la può. Converrebbe che andrebbe. Che dovrebbe vestirsi la mattina, andare a set, fare domanda e poi aspettare che gliela danno. Beh, insomma, perché finché gliela passa qualcuno in discoteca è molto. No, ma lo so, figuriamoci. Vabbè, Sabino, io non ho capito, come ti trovi in questo palazzo, in questo condominio pieno di. Ma io mi trovo bene, tutto sommato, è una comunità che ma si conoscono comunità. Tutti. Ma ho capito, si conoscono tutti. È più normale di quello che voi vi immaginate. Ma quando è più normale? Non è pieno che di spacciatori, ma... di uomo cattivo, eccetera. Ma ho capito, è pieno di spacciatori, drogati, eccetera. Ma è un bel ambiente, secondo te? Dai, su. Non è un bel ambiente, è pericoloso per i bambini che crescono, ma per me, quello a me cosa mi interessa. Cioè, non è che pure tu fai traffici, no? Positiva. Non è che traffici pure tu, no? Ma ci mancherebbe altro, io lavoro 20 ore al giorno. Che, che fai di mestiere, scusa, che fai? Io prima facevo il trasportatore, adesso faccio un altro mestiere, voglio dire... Trasportatore non di droga, però. Autotrasportatore un po' ambiguo, però, adesso tu che hai raccontato queste cose. Non è che fai il corriere, no? Ma no, cioè, non ha senso quello che dici. Il fatto è che una comunità è sempre una comunità, che sia fatta di assassini, sia fatta di... Ma quello che sia una comunità, d'accordo, però non è che stiamo facendo adesso l'elogio degli spacciatori. Stai facendo l'elogio di quello là che fa lo spacciatore. Beh, ma non è bello per tuo figlio crescere in un ambiente pieno di spacciatori. Ma certamente che non è bello. Per questo Giovanardi dovrebbe capire che la droga deve essere venduta nei luoghi deputati. Sì, ma non è che scompare da quelle zone, cioè una volta vuole che viene legalizzata casa, e vuole mettere che deve andare a sé. Ci sarà sempre da questo punto di vista. Carlo da Modena, velocemente dobbiamo chiudere, anzi chiudiamo, ma no, Carlo vai. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Veloce. Io vorrei portare la mia testimonianza di consumatore quotidiano abituale di droghe leggere da oramai 30 anni. E allora sono ancora qua e non ho nessun problema. Beh, questo lo dici tu che non è nessun problema, però, va verificato sul campo. Va verificato nel cervello, nel campo, da una bella analisi, ma ne parleremo domani. Ti richiamiamo oppure richiamaci. 18:30 domani, ciao. Ciao ragazzi, continuate a litigare, continuate. Ciao, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Radio 24. La passione si sente.